Investire informati. Dai, visto che sei in studio, fai tu gli onori di casa. Oggi io faccio un po' l'ospite. Da qui in avanti farò un po' l'ospite nei prossimi giorni. Ma volentieri, io ti ospito volentieri. Non mi sono messo i guanti bianchi oggi, mi hanno dato questa dotazione di guanti azzurri. E allora. Ah, oggi hai quelli del pescivendolo. Esatto, ho voluto cambiare. Allora, do il benvenuto. Non solo adesso speriamo di non offendere i pescivendoli, perché, signore del cielo, ho fatto anche una battuta. Spero di non aver fatto l'ennesimo incidente diplomatico. Ecco. No, ma no, dai, e poi comunque loro, in quanto negozi alimentari, sono aperti. Oh, a proposito, se volete l'elenco preciso, www.ilsole24ore.com, c'è il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Bravo. Dell'11 marzo, lì c'è l'elenco di chi può stare aperto e dei servizi che restano disponibili. E poi naturalmente, come avete potuto ascoltare, dalle 10.30 alle 11 tutti i giorni c'è anche, da lunedì a venerdì, Nicoletta Carbone con gli ausili di tipo più medico-sanitario, un servizio che abbiamo voluto incrementare. Allora, do il benvenuto in rigoroso ordine alfabetico e anche per doverosa galanteria a Monica Defend, che è Global Head of Research di Amundi. Buongiorno, bentornata. Grazie, anzi. Buongiorno, grazie. E poi a Manuel Pozzi, direttore investimenti di M&G Investment. Buongiorno Pozzi. E buongiorno a voi e anche agli ascoltatori. Allora, questa rubrica il giovedì si chiama Investire Informati. Qui però c'è un po' anche che potrebbe coglierci il panico e chiamarci disinvestire disinformati, perché non sappiamo veramente come gestire questi rossi prepotenti che ci sono. Vedo dei meno 5 sparsi così un po' in tutta Europa. Che dobbiamo fare? Fra un pochino dobbiamo dare anche l'aggiornamento di borsa. Sai qual era la curiosità che volevo togliermi, Mauro, con Monica Defende e Manuel Pozzi? Volevo chiedere loro che cosa succede in questo periodo nei loro ambienti, perché chiaramente noi, da persone che hanno dei risparmi più o meno consistenti, ma comunque modesti rispetto alle masse che gestiscono i professionisti degli investimenti, quindi noi ci spaventiamo ovviamente, perché risparmiamo per i figli, per la pensione, ma anche all'interno di questi ambienti, quelli professionali, immaginiamo che giornate come quelle che stiamo vedendo non è che lascino poi tanto tranquilli. Io ieri ho un po' stuzzicato sia Monica Defende e Manuel Pozzi, sentendoli per pianificare questa trasmissione, ho chiesto loro di cercare di condividere con gli ascoltatori anche un po' quello che succede in quelle che ho definito le situation room, richiamando un po' gli ambienti della Casa Bianca quando è in situazione di emergenza, in particolar modo di guerra. E quindi volevo farmi raccontare da loro anche qualche aneddoto di quello che succede tra di loro in queste fasi. Monica Defende, posso cominciare con lei? Sì, grazie. Ma allora, noi tanto stiamo lavorando tutti da casa. L'azienda a Milano, devo dire, sono stati molto attenti sia alla nostra salute, ma anche a preservare la continuità degli investimenti, quindi a preservare il cliente. E devo dire che nell'ultimo mese l'IT ha fatto di tutto per poter permettere di mantenere l'operatività anche da casa. Quindi da noi oggi ad Amundi non ci sono gestori operativi, stiamo tutti lavorando da casa con la situazione che ci ha dato l'azienda, e abbiamo delle continue conferenze, ci sentiamo, anche perché devo dire che lavorare da soli a casa è una cosa bella per un certo punto di vista, per chi magari fa un lavoro come il mio legato alla ricerca, quindi riesce a concentrarsi e a scrivere quello che i pezzi che ci sono richiesti per comunicare con i clienti, ma non è facilissimo non vedersi. Detto questo, dobbiamo tenere i nervi saldi, e quello che stiamo facendo chiaramente con aperture di mercato come quella di oggi o giornate come quelle di lunedì, indubbiamente lo stress non è banale, ma lo stiamo gestendo. Come dicevi prima, in questo momento noi siamo davvero fermi, quindi l'operazione grossa l'abbiamo fatta a fine febbraio, nel momento in cui abbiamo percepito una escalation ulteriore di questo shock, perché fino a fine febbraio pensavamo che sarebbe rimasto in Cina, con sì delle conseguenze tramite commercio estero piuttosto che interruzioni della catena di offerta. Nel momento in cui invece c'è stata un'estensione dei contagi in Europa, in particolare in Italia, abbiamo cominciato a pensare che i paesi avrebbero cominciato a soffrire di crisi di crescita la crescita endogena, quindi uno shock sullo shock. E a questo punto io penso che davvero siamo nelle mani delle autorità fiscali e delle autorità monetarie, che devono intervenire in maniera concertata. Credo che la reazione del mercato di oggi sia un po' una risposta al discorso che ha fatto il presidente americano ieri, che non è che proprio abbia rassicurato, ha dato queste indicazioni di chiusura, per cui il mercato sta reagendo e sta chiedendo una reazione globale, concertata e combinata da parte di politica monetaria e politica fiscale. Allora, fermo Monica Defend, ma fermo un po' tutti, perché alle 11:30, specialmente in giornate come queste, ho piacere che la mia amica Deborah Rosciani mi aggiorni e ci aggiorni sulle borse. Deborah. Due di denari. Dillo a due di denari. Buongiorno due di denari, mi spiegate cosa sono i pandemic bond e perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità non ha ancora dichiarato la pandemia? C'è qualcosa di connesso che possiamo dire su questo? Grazie, Paolo da Milano. Allora, Paolo da Milano ovviamente ci aveva scritto prima ieri, cioè l'altro ieri, non c'era ancora la dichiarazione di pandemia, adesso c'è, non che sia una gran notizia. Invece sui pandemic bond, cara Deborah, sono qui con il blocco degli appunti e la penna. Se mi spiegate così magari imparo, spiegatemi però con pazienza. Avevo già chiesto a Monica Defend appunto di prepararci una risposta su questo. Prima però vorrei anche sentire un po' cosa pensa e come può spiegarci questa situazione anche il nostro altro ospite, perché lo abbiamo tenuto lì un pochino appeso, Manuel Pozzi, direttore investimenti di M&G Investment. Buongiorno di nuovo Manuel, ben trovato, grazie. Buongiorno nuovamente, buongiorno. Adesso veniamo ancora un po' in sospeso. Allora, parlando un po' di aneddoti, dire questo, che come gestore di patrimoni, la maggior parte anche dei miei colleghi delle strutture sono basati a Londra, e come dite anche voi nei vostri notiziari, insomma, a Londra si iniziano a prendere un po' le prime misure, ma non c'è ancora questa sensazione di alienamento che abbiamo invece qua in Italia, dovuto a questa permanenza, il fatto di lavoro da casa, ecco, per la maggior parte di noi basati in Italia, ecco. Quindi la vita dal punto di vista degli investimenti sta procedendo in maniera abbastanza normale. Quello che però è completamente straordinario, parlando così solo del settore del risparmio, degli investimenti, è che il crollo dei mercati è avvenuto con una rapidità che non si era mai vista. Mi spiego meglio. La borsa europea nel suo complesso è scesa circa del 30% dai massimi toccati solo al 19 di febbraio, quindi siamo a 16 sessioni di borsa, è scesa del 30%. Discese così tante importanti si sono già viste in passato, ricordo il 2015-2011 con la crisi dell'euro e della Grecia, il 2008 con la grande crisi finanziaria e con il 2000 la scoppio della bolla della tecnologia. Però in tutte queste crisi precedenti i ribassi richiedono molto più tempo, dai 7 mesi ai 2 anni e mezzo. Invece nel giro veramente di un attimo è avvenuto il ribasso, anche perché deriva da un fattore così esogeno, così esterno e era decisamente imprevisto dai più. Apparentemente ingestibile e incontrollabile, perché io mi chiedo, visto che ci sono tante aspettative anche dalle banche centrali, è chiaro che anche per quello che riguarda questi organismi sarà assolutamente sfidante mettere in campo strumenti adeguati ad arginare le conseguenze finanziarie di un'epidemia sanitaria come quella che stiamo vedendo in questi giorni. Quindi strumenti ancora nuovi rispetto a tutti quelli che già sono stati messi in campo in questi ultimi anni, e ci sono state molte iniziative di politica monetaria non convenzionale, anche questo è un termine che abbiamo imparato ad usare molto spesso, Pozzi. Quindi ulteriormente altro di non convenzionale dovrà essere sfoderato forse. Ma da questo punto di vista le banche centrali sono molto ben allenate, perché nell'ultima decina d'anni hanno fatto ricorso a Pozzi, Pozzi si avvicini al microfono quanto più può. Sì, prego. Diciamo che le banche centrali negli ultimi 10 anni sono allenate benissimo nello sforzo di fare l'impossibile e di trovare anche nuove soluzioni, per cui da questo punto di vista hanno una fantasia che è allenatissima, ecco. Come dicevate voi, già stanno facendo tanto, anche perché anche prima dello scoppio di questa pandemia già c'era una fase di allentamento delle politiche monetarie, cioè di ribasso dei tassi ufficiali in giro per il mondo, perché non c'è solo l'America che ha portato i tassi dal 2,5 all'1,25, esatto, e adesso sono attesi ancora in ulteriore discesa verso 0,5 dal mercato, ma c'è anche la BCE che aveva ritoccato un po' a ribasso i tassi, ha ricominciato a fare quantitative easing, la Cina ha agito a più riprese, l'India, il Messico, la Russia, il Brasile, tutte le principali banche centrali, anche i paesi emergenti, hanno tagliato i tassi, in alcuni casi hanno iniziato a fare quantitative easing, a comprare titoli, o a fare manovre di stimolo del credito alle aziende, anche medio-piccole, e questo l'abbiamo letto in parecchi paesi. Per cui una differenza grossa rispetto a crisi precedenti, soprattutto quelle del 2000 e del 2008 ovviamente, che sono quelle che tutti si ricordano perché sono state le più tremende per i mercati e per i risparmiatori, è questa, ecco, che ci sono banche centrali che stanno agendo in maniera preventiva, hanno ancora un po' di munizioni da utilizzare, e poi adesso ci sono anche diversi governi che stanno iniziando a mettere in campo qualche aiuto, ecco. È ovvio che possono essere solo aiuti parziali e che daranno una mano probabilmente nella seconda metà dell'anno e da lì a venire, ecco. Però stanno venendo messe mano un po' alle finanze pubbliche, qualcosina ovviamente lo stiamo vedendo in Italia col pacchetto di cui si parla di circa 25 miliardi, che probabilmente è il minimo indispensabile, probabilmente, beh, ovviamente non è completamente sufficiente, ma è già un ottimo punto di partenza. L'abbiamo visto anche in Inghilterra, si è parlato adesso la previsione di 30 miliardi di sterline di aiuto, oltre al piano, diciamo, di stimolo economico di investimenti in infrastrutture per il prossimo quinquennio. L'abbiamo visto in Cina, l'abbiamo visto in Thailandia, l'abbiamo visto in Italia, l'abbiamo visto in Giappone. Lo stiamo iniziando a vedere in America, anche se lì in America sembra che stiano prendendo un po' apparentemente sottopesando, sì, ecco, sotto gamba. Probabilmente era una volontà, una speranza di riuscire a tenere gli animi molto più calmi. Però ovviamente questo no, è difficile credo da fare. Che dovranno anche loro poi fare i conti con il fatto che la stessa Organizzazione Mondiale ha dichiarato la pandemia. A questo proposito, allora io tornerei a bussare a Monica, all'indirizzo di Monica Defend per farmi spiegare cosa sono i pandemic bond, perché fatico a comprenderlo. Prego. Allora, i pandemic bond sono delle obbligazioni che sono legate ad eventi catastrofici, pagano delle cedole interessanti, ma se l'evento catastrofico si verifica non pagano più nulla, quindi perdi tutto il capitale e i fondi vengono girati, nel caso di, peraltro di queste due obbligazioni, vengono girate al fondo monetario perché vengono trasformati in aiuti per i paesi che sono stati colpiti dalla pandemia. Sono chi emette questi bond, queste obbligazioni? Allora, nello specifico sono stati emessi due bond dalla Banca Mondiale, sono stati emessi a luglio 2017, sono stati fatti in due tranche, uno per dire pagava l'Aibor più 6,5 e l'altro l'Aibor più 11,10, quindi delle cedole davvero... Pagavano molto molto alto rispetto alle valutazioni, alle quotazioni attuali. Prego. Certo, però chi è che li può comprare? Gli investitori istituzionali, non il piccolo investitore. Io non me li posso comprare. No. Oh, perfetto. No. No. Oh, già ho capito molte cose, prego. Quindi sono stati comprati da assicurazioni, grandi investitori, fondi sovrani e così. E nella fattispecie, quindi dicevo, due bond... Uno era per il rischio di coronavirus e di influenza, l'altro per rischi più ampi, ma sempre di tipo sanitario, quindi febbre emorragica del Congo, coronavirus, filovirus e queste cose qui. Ora, quando scatta la pandemia, in questo caso noi possiamo prendere come inizio il 31 dicembre 2019, è il momento in cui è scattato il contagio e a quel punto però ci sono tutta una serie di eventi che devono avere luogo affinché questo bond possa poi alla fine non pagare. Non li abbiamo, non sono scattati tutti le varie condizioni perché le clausole, sì. Esatto. E se ne sono verificate circa la metà, però l'evento pandemico deve protrarsi per un certo periodo di tempo, ad esempio 12 settimane, 84 giorni, ci devono essere almeno due paesi con almeno 20 morti che sono coinvolti, quindi tutta una serie di clausole di questo genere. Ma come vi ripeto, non sono né dei grandissimi ammontari, perché stiamo parlando di 225 milioni di dollari per il primo bond e 95 milioni di dollari per il secondo, che ovviamente per l'investitore individuale sono un sacco di soldi, ma nell'ottica dell'economia globale non sono delle emissioni di grossissima portata, sono delle tranche piccole nell'economia della finanza. La finanza globale. Allora, dottoressa Defend, un attimo, perché d'accordo, sta succedendo veramente di tutto, però ci sono delle cose che noi vorremmo mantenere e una di queste è appunto il domandone del giovedì. Esatto, tra l'altro siamo buonissimi, perché se non ho capito male la domanda che facciamo è una domanda che riguarda un argomento che abbiamo appena spiegato, quindi è impossibile che non siate stati attenti. Vediamo se siete stati attenti in classe o se giocavate a battaglia navale, perché allora, per chi ci dice per primo o per prima, chiamando 800240024 la risposta a questa domanda, noi invieremo il nostro quadro sugli investimenti che è stato fatto in un instant del Sole 24 Ore proprio poco tempo fa, e anche il nostro instant book sul coronavirus con tutta una serie anche di precisazioni, appunto diffuso la scorsa settimana. La domanda è molto semplice: qual è l'organismo sovranazionale che emette i pandemic bond? Chi li emette? L'ho chiesto io proprio poc'anzi. Due di denari. Giovedì e c'è il domandone. Insomma, va bene, stiamo cambiando tutte le nostre abitudini, giustamente stiamo adottando tutta una serie di cautele, usciamo il meno possibile, solo chi deve lavorare deve recarsi al lavoro, solo per fare la spesa, proprio le cose più necessarie in assoluto, però qualche cosa vogliamo mantenerlo, scusate, anche per sentirci un po' tutti un po' più confortati. Allora, 800240024 è il numero al quale dovete fornire questa risposta: qual è l'organismo sovranazionale che emette i pandemic bond? Vi regaliamo. Io la so, posso partecipare? No, no, tu non puoi partecipare, Deborah, ci mancherebbe. Allora... Perché oggi, essendo qua fuori dalla redazione, sai, mi sento un po' anche ascoltatore. No, allora a te mi dispiace, ma il notaio ha detto che non puoi partecipare. Invece ti voglio far ascoltare Andrea, che ci ha chiamato da Vicenza e pone una domanda. Ottimo. Che nella sua, come dire, brutalità è poi il cuore del problema. Beh, sì. Andrea, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Pertinente, ci chiede Andrea. Ascolti, buongiorno, io chiedo semplicemente una piccola cosa. Io dopo 30 anni e passo di lavoro mi sono fatto un piccolo tesoretto. Io sono uno che lavora nella ristorazione. Oggi, come sol dire, la ristorazione è andata a KO, essendo, certo, in famiglia l'unico diciamo che reddito, porta i soldi, sì, a casa, reddito fisso. E parlando anche con il mio consulente, che non vado a dire la banca qual è, mi dice di trattenere, perché come tutte le crisi vanno e vengono, anche questa si risolverà, però io devo preoccuparsi anche della mia famiglia, eccetera, capito il discorso là? Certo. E sto un po' valutando di portare a casa salvabile, vedendo un attimino quando la BCE sparerà le sue ultime cartucce, vediamo se qualcosa si risolverà, diciamo, sì, così. Vorrei sapere cosa fare, diciamo, perché loro, certo, i consulenti, sai come dicono, loro dicono dicono che si aspetti, vedrà, passerà tutto, non c'è problema. Beh, eccetera. Certo. Allora Andrea, ma guardi, abbiamo compreso, e ovviamente un abbraccio particolare a lei e a tutte le persone che lavorano nell'ambito della ristorazione e che in questo momento stanno soffrendo forse più di altri anche la morsa di questa crisi. Io credo, ma la butto lì per fare bella figura con i nostri esperti, un criterio potrebbe essere quello dell'orizzonte temporale che ci insegnano sempre nei corsi di educazione finanziaria, cioè entro quanto tempo potrei aver bisogno dei soldi che ho messo da parte? Poco tempo, tanto tempo, cioè 6 mesi oppure 3 anni, 5 anni? Credo che quello potrebbe essere un primo criterio, ma chiedo conferma. Debora, chi vuoi ascoltare? Sì, per sì, primo? No, assolutamente. Magari riprendiamo da Manuel Pozzi, che lo stesso avevamo solamente per questione di alternanza. L'ultima volta abbiamo sentito Monica Defende. Ci aggiungo anche un altro pizzico di, se volete, un altro anche argomento, no? Perché chiaramente valuteremo la modalità in cui abbiamo risparmiato fino a questo momento per capire se è il caso adesso di cambiare strategia, puntare magari su altri strumenti o su settori diversi rispetto a quelli sui quali abbiamo risparmiato fino a questo momento. E quindi aggiungo anche a Manuel Pozzi, oltre ad una richiesta di considerazione per l'ascoltatore che ci ha chiamato, quali sono i settori che in queste settimane sono usciti letteralmente a pezzi da questa crisi e dai quali potrebbe teoricamente ripartire, magari non domani, non fra una settimana, la borsa, perché saranno i settori di investimento che riusciranno a sostenere tutta l'economia prossimamente. Stavo pensando a tutti quelli che lavorano in smart working in questo periodo, che hanno bisogno di attrezzatura, tecnologia, e chissà quanto durerà anche questa nuova modalità di lavorare. Potrebbe diventare addirittura un settore di investimento prossimamente. Quindi diciamo una domanda un po' spezzata in due, complicata. Pozzi, le chiedo sintesi, me ne rendo conto, ma queste sono un po' le cose che volevamo sapere. Certo, allora sull'orizzonte temporale, un po' l'abbiamo detto all'inizio, ecco, della chiacchierata, il fatto che la discesa di borsa sia stata così violenta e rapida come mai prima d'ora fa pensare anche che quando poi il mercato troverà un po' di stabilità, e questo probabilmente potrà avvenire quando ci sarà un pochino più di chiarezza sull'evoluzione della pandemia. Avete visto in Cina che una volta fatte le misure drastiche, anche se erano prese con un po' di ritardo, e hanno messo in sicurezza le regioni più a rischio, quando hanno iniziato a vedere un rallentamento della crescita dell'epidemia, questo è già stato un segnale positivo che ha avuto dei risvolti poi anche di borsa. Ecco. Quindi probabilmente ci sarà da aspettare questo periodo, che probabilmente in Europa inizierà qualche settimana, per poter avere quantomeno un pochino una percezione di minore incertezza, perché le valutazioni e i prezzi sono già scesi in buona parte. Ciò non toglie che non possono continuare a scendere con gli eccessi derivanti proprio dalla paura, dall'incertezza, ma sicuramente le valutazioni sono già scese, e sono scese per tutti i settori. È ovvio che poi c'è il settore energia, petrolifero, è sceso più di altri, così anche tutti i settori legati alle materie prime, e così come anche i settori più legati a trasporti, aerei, viaggi e così via. Però la realtà è che tutto il mercato è sceso, persino le utility, che dovrebbero essere il settore per antonomasia più stabile di tutti, è sceso meno degli altri, così anche il settore sanitario è sceso, anche perché lì c'era un po' l'incertezza legata alle elezioni in America riguardo ai progetti o ai programmi anche politici di alcuni esponenti demografici. Quindi è sceso tutto più o meno in contemporanea, in maniera molto rapida. A questo punto l'azionario, sicuramente per chi ha uno dell'orizzonte di tempo di investimento dal medio in su, a questo punto è sicuramente una delle asset da avere in portafoglio, il che non vuol dire che bisogna comprare una delle equità investita tutta oggi, sicuramente fare in maniera scaglionata nel tempo, ma sicuramente è un asset più importante. I titoli che hanno difeso meglio sono stati i titoli di Stato percepiti come sicuri, quindi Svizzera, America, Bund tedeschi ovviamente, ma anche i titoli francesi in buona parte e così via. Ecco, questo genere di titoli oggi hanno dei tassi di interesse di rendimento talmente bassi che non si erano mai visti nella storia, e quando parlo della storia vuol dire mai in assoluto, in nessun secolo, neanche passato. Allora, che vuol dire che non sono dei buoni investimenti, possono offrire un pochino di protezione in queste fasi così angosciose, ma non sono assimilabili a un investimento. Ecco, allora si può guardare anche l'oro, che è un'altra delle dei tipi di attività anche finanziarie che hanno dato un po' di protezione in questa fase. Ecco, quindi il consiglio, o quantomeno possiamo dire quello che stiamo facendo noi nei portafogli che gestiamo, è quello di non avere troppa fretta, non scappare senz'altro visto quanto già avvenuto e visto che le valutazioni sono tornate su livelli interessanti per molti mercati azionari e anche del credito, diversificare tanto l'investimento e avere un po' di pazienza. Il fatto che il crollo sia stato così intenso e rapido probabilmente fa sì che il grosso dei ribassi sia già avvenuto. Grazie, grazie Manuel Pozzi, ma abbiamo 20 secondi e quindi io ne approfitto, Deborah, per comunicare a tutti gli ascoltatori che ci hanno scritto chiedendo sospenderanno questo o faranno quest'altro. Dobbiamo aspettare domani le decisioni del governo, il testo del governo, vi rimandiamo alla giornata di domani. Ringraziare Silvio, che il pizzaiolo che ci ha promesso qualche pizza in redazione appena finirà questo casino, e sentire se Alessandro da Rovigo ha la risposta giusta alla domanda: qual è l'organismo sovranazionale che emette i pandemic bond? Buongiorno, la Banca Centrale. Purtroppo non è la risposta corretta. Niente. Assegneremo così d'ufficio a qualche altro ascoltatore, ma anche allo stesso Alessandro, il nostro premio. Grazie, Deborah. Grazie a Manuel Pozzi e a Monica Defend. Restate a disposizione come tutti gli esperti, ne avremo bisogno in queste settimane. A domani.